Parte da una pagina Twitter, direi, come ce ne sono tante anche su Facebook, Italians Mad at Food. Di complotti sul cibo se ne sono infiniti, da glutine alla carne. Intanto ci riparte This Must Be the Place in sottofondo, ma lo togliamo. Da glutine alla carne alla soia, dalla Monsanto alla Nestlé al caffè nero, nero come la Coca-Cola, due dei prodotti più scambiati al mondo. Prima o poi affronteremo tutti questi complotti, ma oggi tocca la cospirazione culinaria forse più estrema di tutti i tempi, tutta nostra, di noi individui che ci definiamo italiani, difensori della qualità e dei principi, che non ci pieghiamo alle logiche del fast food capitalista americano, solo ogni tanto, e nemmeno alle conquiste stile colonialismo dei vari poke wok sushi solo ogni tanto. Noi che ci piace cucinare, noi pazzi per il cibo, Jack. Avremmo scelto This Must Be the Place non a caso, insomma, This Must Be the Place, l'Italia è un po' il posto dove si parla continuamente di cibo, direi. Tutte le strade portano a Roma. E la cosa più interessante, tutte le strade portano a Roma. E la cosa più interessante, direi, che è non solo il fatto che noi ci sentiamo quelli che ce l'hanno più lungo in termini di cibo, ma anche quanto e come scassiamo il cazzo noi italiani sul cibo. E quanto riteniamo poi importante la tradizione, quanto riteniamo inconciliabili dei cambiamenti, anche minimi, dal parmigiano al pecorino può nascere, no? Una seconda Iliade, solo perché qualcuno ha osato mettere troppo parmigiano invece che del pecorino nella carbonara. Ma io sono di Parma, quindi poi quando si scambia il grana col parmigiano divento pazzo. Però personalmente mi piace sperimentare, a volte faccio anche dei casini, delle pseudo ricette tradizionali con quello che trovo e vado a cambiare, in verità facendo rivoltare nella tomba probabilmente di santi della carbonara e della matriciana. Però invece penso che tu sia un po' più in linea con Italian's Made Food per la precisione del rispetto della tradizione dei piatti. Qual è la tua opinione sulla carbonara? Abbastanza, questa è una cosa interessante perché su quella pagina appunto la foto di copertina è proprio un americano che chiede "So what is your opinion on carbonara?" e un italiano gli risponde "Carbonara is not an opinion." E direi che per molti versi mi trovo, no, anche abbastanza d'accordo su certi dogmi e su certe cose, anche se ritengo che, come tu, diciamo, mi dicevi l'altra volta, che la cosa bella poi è sperimentare. Cioè, forse i piatti migliori mi sono usciti quando avevo 2 zucchine morte nel frigo, 3 carotine, un mezzo porro malandato, e alla fine è uscito qualcosa di interessante, no? Però è vero che anche la tradizione ci insegna a fare con quello che abbiamo e con pochi ingredienti, giusto? Assolutamente, assolutamente. In fondo, uno dei dogmi più assoluti della cucina italiana è proprio la semplicità, forse degli ingredienti più che del processo, perché alcuni processi sono infiniti. Cioè, vai tu a dire a una nonna siciliana che la parmigiana è un processo semplice, no? Sì. Al netto della quantità di amore che lei ci mette per farlo, poi no, c'è tutto il dissalamento, la disidratazione delle melanzane, insomma. È complesso, direi, no? Vero, non abbiamo ancora trovato una canzone per la parmigiana, però abbiamo una canzone per A Carbonara, di Maurizio Fortini, e allora ce la piazziamo per un altro breve stacco musicale. Domanda proprio volante, ma tu come la fai la carbonara? Venite tutti a casa mia na carbonara, non se ne chiama nessuno, c'è sta volontà. Se sa che a panza piena si ragiona meglio, te senti un po' più sveglio se c'è un piatto da magna. Se magna, se magna, se magna, se magna, se magna, se magna, se magna, se magna, se magna. Oh, e da bevi! Se beve, se magna, se beve, se magna, se beve, se magna, se beve, se magna qua. Mi sento un po' appacchiato perché Roma è ignara, le usanze dei noantri se ne stanno a na. Tanaura io so romano e c'ho un orgoglio, la carbonara voglio a costo d'amore ammazza. Se magna, se magna, se magna, se magna, se magna, se magna, se magna, se magna, se magna. Ah, è da bere, apriamo la boscia. Se beve, se magna, se beve, se magna, se beve, se magna, se beve, se magna qua. De notte sotto casa mia c'è una caciara, ci stanno sti coatti insieme vanno a na. Allora sai che faccio, almeno non me sbaglio, regà, damo centaio, mo venite su a magnà. E che c'è da debita magnà? Come che, a carbonara. A carbonara? Namo regà. Se beve, se magna, se beve, se magna, se beve, se magna, se beve, se magna qua. Ah, non c'avete fame? Allora dai! Se magna, se magna, se magna, se magna, se magna, se magna, se magna, se magna, se magna. Ah, vai da bere! Se beve, se magna, se beve, se magna, se beve, se magna, se beve, se magna qua. nuovo leitmotiv dell'ora del complotto. Se l'altra volta era trallallero, trollolo song, questa volta potrebbe essere la carbonara. Diciamo che cercavamo qualcosa di più complottistico come i carbonari, cioè i carbonari song, ma è uscita a carbonara. Tu dov'è che hai mangiato? Beh, tu sarai stato a Roma, immagino, come me, come più o meno, siccome che tutte le strade portano a Roma, ci sarei stato anche te. E ti chiedo qual è la carbonara più buona che hai mangiato a Roma. Ma devo dire che le ultime cose che mi ricordo di Roma sono tonnellate di porchetta e, e giri in macchina, però la carbonara non me la ricordo affatto, purtroppo. Io faccio invece un endorsement a una grandissima carbonara, che è quella di Cacio e Pepe da Gianni, vicino a Piazza Mazzini, che è, tra l'altro, e non lo faccio solo perché sono amici, ma perché proprio la loro carbonara è una delle più buone. Ricordo una volta una mia amica romana mi disse: prossima volta che vieni a Roma ti faccio mangiare la carbonara più buona di tutte, che è da Cacio e Pepe. E io le dissi: guarda Laura, con tutto il bene, io ci mangio gratis perché sono miei amici. Quindi tendo a dire che è davvero una super carbonara che consiglio a tutti. Ed è anche tre volte più buona, allora, se è gratis. Esatto, è anche tre volte più buona, anche tre volte più pesante, perché la fanno veramente con ettoliti di grasso. Ci sta, tutto quello che si scioglie deve finire nello stomaco. No, io invece posso raccontarti, se vuoi, della carbonara peggiore che io abbia mai provato, però questo è un argomento per fra poco, direi. Beh, lo voglio sentire. Cioè, qual è, insieme alla carbonara peggiore che hai mangiato, e con peggiore, perché anch'io ne ho una grande, grande peggiore, sono curioso di sapere poi una lista di piatti che ti hanno veramente scioccato, che comunque traumatizzato la tua coscienza italiana, no? Sì, dopo parleremo di tutti i complotti del brand italiano, sottobrandizzando il brand italiano con mozzarelle che sembrano nient'altro che cheddar e carbonare che sembrano nient'altro che paste asciutte fatte male. E infatti proprio per questo, una cosa che ci teniamo poi, no, da italiani a far capire, direi che il cibo, come trauma o come, no, ricordo di qual è la carbonara più buona di tutte che ci siamo mangiati, è che appunto il cibo per noi è molto e soprattutto forse un ricordo. Cioè, che è un ricordo che associa a un'attività, che può essere lo spaghetto al pomodoro della nonna che ti faceva quando tornavi dal mare tutto pieno di sale, o che fosse la polenta col cinghiale dopo un trekking faticosissimo. Il punto è che, secondo me, noi italiani proprio abbiamo questa forma di simbiosi tra memoria e memoria del cibo, ed è forse per questo che poi ci siamo così tanto affezionati, perché poi, no, è una parte integrante della nostra vita, non è una mera introduzione di energia nel nostro corpo. Ma credo proprio di sì, assolutamente, non dovrebbe mai diventarlo un semplice gesto, tipo la pila degli astronauti. E secondo me la cucina è artigianato, arte, tecnica, come altre varietà di artigianato, se possiamo passare questo termine per la cucina, e è già troppo fuori dalla nostra vita quotidiana, dovrebbe essere un momento di raccolta familiare della tribù, dovrebbe essere sempre più spinto nella nostra vita quotidiana, perché sta uscendo troppo in fretta, e sempre più in fretta. Un momento sociale partecipato, tutti dovrebbero poi, visto che dovrebbe essere così, sapere le basi, saper maneggiare un po' con gli arnesi, così eventualmente chi invece è in grado di farlo non arriva a scassare il cazzo male e non si creano disaccordi, insomma. Cioè, anche se la famiglia è fatta da una casa studenti con gli inglesi, sarebbe bello che un inglese potesse fargli una pasta ogni tanto un po' umana. Una pasta e aggiungerei anche un aneddoto, no? Se tu ci pensi, al primo lockdown tutto il mondo aveva finito la carta igienica, noi avevamo finito il lievito. Direi che questo ci categorizza proprio come mad at food. Esatto. Ed ovviamente poi anche come, no, vivendo all'estero, la prima cosa che le mie coinquiline hanno pensato prima di conoscermi è che erano profondamente convinte che io fossi un gran scassacazzi sul cibo, no? Che fossi picchi e ciusi, per utilizzare un termine di forneriana memoria, sulla pasta, sulla cottura, sugli ingredienti, sull'olio, su come si fanno tutte queste cose, perché noi non ci stiamo, perché per noi è semplice, no? È una roba che dovrebbe essere semplice, come un sugo di pomodori, cioè c'è dentro il pomodoro, l'aglio, il basilico e una grattugiata di parmigiano, e teoricamente finisce così, senza gouda, cheddar o infilando gli spaghetti dentro la salsiccia come se fossero dei capelli stinti che ci disgustano non solo la vista, ma poi successivamente purtroppo anche il palato, ecco. Sì, io non so cosa succede quando noi andiamo a provare ricette della tradizione altrui, però sarebbe carino che gli scozzesi, se sono abituati a friggere i Mars dentro al burro, si limitassero a fare quello e non farlo anche con gli spaghetti per poi chiamarli con un altro nome. E... è una semplicità diversa forse quella della nostra pasta al pomodoro, è sofisticata perché ogni ingrediente scelto, dosato e cotto con estremo amore, come direbbe Rocco, amico che salutiamo, però non, è semplice solo in apparenza, appunto, perché lo spicchio d'aglio deve essere cotto ma non bruciato, rosolato alla perfezione, tutto fatto a occhio. È spettacolo, non è la semplicità di una formula matematica che dopo anni di studio è stata raffinata per avere soltanto qualche incognita e qualche variabile, ma che in verità parte da qualcosa di molto complicato che c'è stato tramandato qua sullo stivale. Qual è per te una cosa veramente molto semplice che ami? Cioè un gusto proprio semplice che ami? Di cucinato però sempre, giusto? Sì. Un gusto semplice che amo, vabbè, a cotoletta, difficile dimenticarsela, ma anche la pasta, la polpetta, cotoletta, polpetta, tutto quello che finisce con etto va benissimo, la torta yogurt, che anche quella è molto semplice, una pasta qualsiasi, anche il pomodoro, però con un tocchettino di carne, tipo matriciana. Bella. Ci può stare. E anche la pasta al pomodoro, alla fine io la disdegno quasi sempre, spesso ultimamente, perché potendoci infilo dentro qualcos'altro, ma anche la pasta al pomodoro è troppo buona. Cioè se tu vai mesi all'estero e torni a casa, l'unica cosa che vuoi è una pasta al pomodoro, fatta dalla mamma probabilmente. Dopo 3 settimane che ero in Senegal, sono tornato e la prima cosa che mi hanno preparato i miei amici per un cavolo di pranzo erano dei belli spaghetti al pomodoro. Bravi, sono dei buoni amici. Dopo, esatto, è da queste cose che si capiscono che sono dei buoni amici, forse. Va bene, visto che secondo me stiamo virando, scarrocciando senza annunci verso un momento di burdello, come se finora stessimo parlando di cose serie, potrebbe essere il momento di iniziare a sparare la ruota libera e alzare la caciara. E allora ve lo introduciamo questo momento di cacciara con Arza la caciara de Corveleno. Arza la caciara! Yeah, hey, let me get ready to get down with some business. Hey. 1994, su base dei Hooligans, Corveleno. Asci fragaggio, monte faccio scoggio de veleno vero, ti riporto come una calzetta e so sincero quando, proprio quando te scemanno, alle pretese tue rispondo de montante, te sfondo, arrivi col goccetto ma ne avevo già discusso, io non te do retta ma anche a me se non concesso che ne pia un pochetto, poi te lo risputo, ne va stretto, non me serve, questo è risaputo, pure in chiesa tarzo la caciara, non me riposo ma me sale nel cervello e vado fuori con l'accuso, però io fa mer panico e startamo con la gente, se te senti scarico rimani indifferente, cala testa musica, non veni corvino perché famo a cortellate come Rugantino, sto a 2000 sopra il tempo, non vedi quanti semo, e voi che state fermi in fila noi vi rispondemo, lo so che vanno fatto a tutti con lo stampo, ragionate in comune, non ci avete via de scampo, ma noi semo le bestie, la vostra sciagura, non ci fate mai cantare perché varsamo la caciara, arsa la cala caciara, arsa la caciara, arsa la cala caciara, arsa la caciara. notte, un'altra volta il beat. E siccome dice Zano, so romano e se deve da sentire sto qui, mentre la gente sciocca che scheggia col veleno assieme a Fecce è presente de novo. E anche se c'è chi ancora non lo accetta, marca male con me come un cinquino con arpetta. Arrivo in fretta, vado depresso e faccio tana come li ragazzini a nascondino sta in campana. Da oggi non c'è applauso per lo scrauso che mi stressa, se deve da far segno della croce come ammessa. Che il primo sgravo, io non sto zitto come prima, stavolta puoi star palo con l'amaro se sto in cima. E non te metto in testa, te dimmi le cose come stanno, manco te ne accorgi, già t'ho fatto il danno. Anzi de più state zitto, impara che il tuo defece scheggia, mo t'arza la caciara. Arza la gala caciara, arza la caciara, arza la gala caciara, arza la caciara, arza la gala caciara, arza la caciara, arza la gala caciara. Eccoci qua, tornati con Arza la Caciara dei Corveleno. Au. Siamo quasi pronti per il momento di caciara. Prima di passare in rassegna al cucinare male della nostra vita. Cucinare male, tra l'altro, è un'altra pagina di, che però è su Facebook, che si consiglia per ridersela. La passano anche su propaganda ogni tanto. Ah, sì? Sì, fanno vedere un po' di roba assurda. C'è questa teoria del complotto, che in verità non è molto del complotto, ma è cultura nostra, è cultura di tutte le nazioni, difendere la propria cultura, di esportarla e quindi di sentirsi anche un po' arroganti nel farlo, e un po' il fatto di riconoscere una propria cultura già, piuttosto che una cultura mondiale, una cultura umana, già dice molto. Poi dalla cucina si può passare molto velocemente ad altri aspetti della cultura da difendere, da anche a spada tratta, diciamo. Chiaro, anche attaccare. La cucina e cultura, sì, il concetto però è che bisogna parlare di queste cose in... così, un po' ironicamente, come stiamo facendo noi, senza dover dire che la cucina italiana è la prima cucina del mondo o... No, solo sopra quella francese, non dico che sia la prima, mi basta questo stupido, mi basta questo stupido traguardo. Esatto. Cioè, che a noi ci fa piacere che gli scozzesi mettano a friggere il Mars nel burro, non volevamo assolutamente offendere nessuno, qua siamo tutti politically correct. E niente, in realtà, questo era il mio complotto poco razionalizzato che vedevo, che la cultura, appunto, che la difesa delle proprie culture non diventi un attacco a quella degli altri. No, assolutamente no, anche perché poi credo che, no, come dicevi prima, la cucina è un po' una parte di fatta di commistione anche, no? Quindi fatta di artigianato, fatta di diverse tecniche, di arnesi, e poi proprio il bello forse è quello di andare in altri paesi, scoprire che cosa si mangia ed eventualmente arricchire il proprio bagaglio culinario attraverso delle altre ricette. Per dire, una delle ricette che è diventata una mia preferita è il pollo yassa alla senegalese, che è una porcata infinita, perché è un letto di lattuga con patatine fritte e questo pollo cotto in tonnellate di cipolle con miele e senape, che detta così sembra una grandissima cagata, ma posso assicurarti che è veramente godereccio come cibo. È buono, per fortuna che io buono. E penso la maggior parte degli ascoltatori hanno già mangiato, e quindi è per questo che ci permettiamo di parlare di cibo, non per far sentire a tutti l'acquolina in bocca. Esatto, poi in Italia sono le 2:30, quindi insomma in realtà abbiamo preso anche un tempo giusto, no? Perché se gliene parlavamo a mezzogiorno e mezza li facevano diventare dei psicopatici. Assolutamente, poi andavano a fare la spesa anche con la fame, che è la cosa peggiore del mondo. Prendi tutto al supermercato e lo metti nel carrello. Magari a qualcuno gli veniva veramente lo sgribizzo di friggere un Mars dentro al burro, cioè io mi sarei sentito in colpa. Eh sì, è vero, però penso che fossero più tutti tendenti al pollo yassa. Ce lo auguriamo. Ma adesso siamo arrivati al momento in cui parliamo delle cose peggiori, no? Perché sono quelle più divertenti. Assolutamente. Quelle migliori sono bravi tutti a dirle, no? Sì, Italia's Made Food anche pone abbastanza l'accento sulle peggiori piuttosto che sulle migliori, mi sembra. Esatto, direi proprio di sì. Quindi adesso ti passo la palla e ti chiedo quali sono state le cose che ti hanno veramente traumatizzato, cioè delle cose che hai detto, io mi alzo senza pagare, o peggio, facevi come Joe Bastianich che spaccava il piatto per terra, cioè proprio delle robe che ti hanno ucciso qualcosa dentro. Allora, io non so se per rispetto o per educazione, non so cosa, queste cose non penso di averle mai fatte o non farle mai, piuttosto lascio quello che ho nel piatto da mangiare a qualcun altro che ha più coraggio di me. Però posso partire già dall'infanzia, guarda, se devo andare in ordine cronologico, poi mi sono appuntato un altro paio di cose, però dall'infanzia, se penso agli spinaci della mensa della scuola. Oh. Signora, mamma mia. Mamma mia, i fagiolini, qualunque cosa cotta e verde della mensa. Assolutamente, cazzo. Direi che fossero quindi piselli, fagiolini e gli spinaci della mensa, tutti verdi. E penso che poi per una decina, quindicina d'anni io abbia avuto delle difficoltà a confrontarmi con queste verdure e ho ripreso soltanto attorno alla maggiore età a consumarle, perché la razionalità ha fatto sì che il ricordo traumatico dell'infanzia scomparisse. Sono stato d'accordo, soprattutto, guarda, spinaci e fagiolini anche io. Cioè è stata una cosa che davvero ho superato con la maggior... Sono andato a votare e ho detto, bene, forse sono grande abbastanza per... cominciare a mangiare anche i fagiolini e gli spinaci. Sei pronto allora? Un'altra cosa invece atemporale che mi capita ogni volta che entro in un kebab pizzeria o soprattutto all'estero, ma anche in Italia e in qualsiasi altro posto faccio un po' tipo fast food, quando vedo anche nei supermercati all'estero la mozzarella spacciata per mozzarella, cioè del formaggio di plastica a pezzetti dentro buste di plastica, per fortuna non a pezzetti, spacciate per mozzarella, poi tu li vedi spargerli sopra pizze, coni pizza, cose strane al sapore di pizza, allo pseudo sapore di pizza... Insomma, questa roba spacciata per mozzarella a me traumatizza abbastanza, così come quando è spacciata per parmigiano o per grana. Sì, guarda, l'unica cosa che mi sono portato qua ad Atene sono state due forme di parmigiano. Cioè, tutto il resto era inutile, ma il parmigiano no. Il parmigiano è difficile. Difficile fare senza, difficile trovarlo, costicchia, è sempre meglio averne uno in borsa. Assolutamente, c'è da dire però che i nostri amici ellenici fortunatamente hanno dell'ottimo gorgonzola, cosa che non mi aspettavo e mi ha stupito molto. Ti puoi tagliare una fetta di gorgonzola a 12 euro al chilo e ti giuro che mi ha allietato non poco la mia permanenza all'estero. Buono, sono dei bravi stagionatori, di fresco. Questo è giusto per dire che in mezzo a tutto questo schifo di cui stiamo dicendo ogni tanto c'è anche un barlume di luce. Ma torniamo allo schifo. Torniamo allo schifo. Eh beh, comunque come le mense delle scuole penso che più o meno a quel livello sia il ristorante medio o la cucina casalinga media in Inghilterra o Irlanda. E quindi sconsiglio a tutti di essere ospiti di una famiglia più o meno qualsiasi, inglese o irlandese. Tu sei stato ospite? Sono stato ospite in famiglia sia in Inghilterra che in Irlanda. E... Oh mamma, beh, qua si apre, cioè no? Si apre un capitolo lunghissimo. Sì, lunghissimo. Però ti chiederei semplicemente il top del top, cioè quello che proprio ti ha fatto dire: mamma mia, voglio tornare in Italia, fatemi ascoltare anche Gigi D'Alessio per un anno di fila, solo quello. Però questa roba qui non la posso più vedere. Quelle esperienze sono state quelle che poi al rientro mi hanno fatto apprezzare tantissimo la pasta al pomodoro della mamma. Ci credo, cazzo. Assolutamente, no, tra l'altro una di quelle esperienze è stata quella in cui il professore scozzese mi ha detto come facevano il mars nel burro. Per fortuna non me l'ha cucinato, ma me l'ha spiegato. E... Wow. Io credevo fosse, cioè non credevo fosse vero. Credevo no, è proprio vero, è proprio vero. E si è anche dimostrato molto... empatico nei nostri confronti, sapeva che c'erano 3-4 italiani nel gruppo e niente, empatia totale. Ci vedeva un po' smunti, ci vedeva un po' smunti. Ci credo, vi proponeva un po' di Mars per tirare un po' su di morale. Sì. Io ti dico, una delle cose peggiori, tornando sempre alla carbonara, che ho mangiato in tutta la mia vita, beh, allora, c'è un capitolo, ci sono due capitoli, la prima è sempre quello delle mense, perché quando ero qui ad Atene a studiare per la tesi, la mensa è gratuita per gli studenti. E loro ti servivano gli spaghetti alla carbonara. Peccato che praticamente la pasta, per come era coniata all'interno di quella mensa, fosse cioè la pasta scolata con un po' di olio e dopodiché un 3-4 salse con cui potevi condirla. tra cui c'era la salsa alla carbonara, che chiaramente era tipo panna e pancetta, per darti un'idea. E io ti giuro che una sola volta ho detto, va bene, io oggi farò questo tentativo di capire che cos'è questa cosa. E ti assicuro che è stata un'esperienza ma disgustosa, cioè nel senso che dopo ho detto, va bene, non posso ordinare un altro pranzo qui in mensa perché non si può, vado a mangiarmi un cacchio di souvlaki perché altrimenti faccio la fame, perché era veramente una cosa da mettersi le mani nei capelli. L'altra peggiore esperienza, che è un capitolo a sé, riguarda una nostra amica di famiglia che è la cui capacità di creare degli scempi culinari ha veramente dell'incredibile. Te ne cito due. La prima è un dolce e secondo lei era molto fancy, molto, sai, molto intrigante il mischiare il dolce col salato, che è vero, però non puoi mettere una cazzo di acciuga sopra una fetta di panettone, perché una cosa del genere, ho avuto dei brividi, una cosa del genere non si può veramente pensare. E l'altra top di questa persona, che ci auguriamo che non ci stia ascoltando, ma no, la salutiamo e dedichiamo a lei la puntata. Esatto. Un'altra cosa top furono, sai, gli asparagi con l'uovo, che anche questa è molto italiano perché è veramente semplice, cioè devi prendere gli asparagi, farli lessare un pochetto che si ammorbidiscano e dopodiché servirli con un po' di uova. Ma io ti assicuro che riuscii a fare questa sorta di poltiglia acquosa di uova in cui non si attaccava neanche all'asparago, e c'erano questi asparagi tutti morti, tutti flosci, che dici, cavoli, ma si trattava solo di lessare degli asparagi con un po' di uova. No, ma l'uovo è un piatto complicatissimo, l'uovo. E come dice Cartoni Morti, l'uovo all'occhio di bue è andato anche in finale a Masterchef. Vero, okay. E poi l'uovo di Pasqua, per dire, no? Cioè, che è un altro piatto che è diventato, che ha dato grande importanza all'uovo, siamo d'accordo. Però qui si trattava di fare un diavolo di asparago con le uova, ecco. Per tutti i radioascoltatori, nel caso non lo sapessero, l'asparago si può mettere con la punta all'insù, che ci mette meno rispetto al gambo in basso, in piedi dentro alla pentola, e far cuocere così la punta anche solo al vapore, piano piano, col coperchio. Che poi è buono, se rimane anche un po' croccantino, cioè io lo trovo molto più delizioso. Sì, ci sta. C'è quella cosa dell'amore nella cucina, che devi trovare sempre il punto giusto, insomma. Assolutamente. E beh, adesso passiamo, però è sempre bello e divertente discutere delle cagate che fanno gli altri, ma poi c'è il momento in cui ci si guarda allo specchio. Quindi, qual è la cosa peggiore che hai mai cucinato? Ma guarda, io sono famoso per aver fatto dei malloppi, dei mappazzoni. Ma il famoso mappazzone di Barbieri. Il famoso mappazzone di Barbieri. Ma passo anche da qualcosa di molto semplice anch'io, per esempio. Il pane, quando ti cimenti col pane ti viene il crostone duro male, oppure qualcosa di assolutamente impossibile da rompere fuori e mollissimo dentro. È una cosa fantastica, il mistero della panificazione. Che poi arriva un tuo coinquilino, no? Ti dice, ah, ma io so fare il pane. Si fa il pane, fa un pane della Madonna in casa, e dici, ma porca troia. Come cazzo hai fatto? Come cazzo spiega il trucco? Sì, ci sono appunto dei trucchi, non è niente di... bisogna saperli, no. C'è qualcuno che tiene segreto questo complotto. Beh, d'altronde si svegliano presto la mattina per farlo, forse svegliarsi presto la mattina è uno dei trucchi. È quella dose d'amore per riuscire a fare il pane. Esatto. Io ti dico, la cosa peggiore che ho cucinato è uno dei miei primi esperimenti. Io ho cominciato a cucinare molto giovane perché dopo un po' che pranzi tutti i giorni a casa alle medie con panini, piadine, toast, pizze, eccetera, a un certo punto o ti si crea un blocco intestinale oppure decidi che forse è il caso di cominciare a mangiare qualcos'altro. E quindi ho cominciato con il pesto, che uno dice, ma come si farà mai il pesto? Si prende già fatto. Giusto. No, lo voglio fare io. Qual è stato il passo successivo? Il passo successivo è che, se non lo sai, il pesto è un sugo crudo. Per cui io invece, alla nobile età di 12-13 anni, una cosa del genere, l'ho buttato in padella a scaldare. Entra mio padre in casa dicendo, che cazzo è sta puzza di bruciato, sto schifo di basilico bruciato? E c'ero io che stavo saltando, no, come uno chef il pesto in padella. C'erano le pecore e le mucche delle valli di Roma e di Parma che si sono rivoltate, stavano saltellando per i campi, bestemmiando duro, tirandosi le cornate. Esatto. Per aver buttato il proprio latte sopra una padella. Ti giuro, questa è stata una delle cose sicuramente peggiori, insieme a un altro esperimento di panificazione che ho fatto anche io, che volevo provare a fare tipo un pan carré, sai, tipo il pan brioché, quello un po' più dolce, un po' più burroso. Lo fece mio zio, gli venne veramente una roba da urlo. Lo feci io e venne praticamente un panetto di burro messo in forno, risolidificato, e uscito fuori con un pochino di crosta. Una schifezza, ma una schifezza immangiabile. Allora, se penso ad altro che ho cucinato, beh, anche io col basilico mi cimento in pesti rivisitati, ovviamente, perché i pinoli non mi piace Cosmi. Comprarli e lo faccio anche verde, quindi senza, diciamo, vegano. E devo dire che mi piace tantissimo, e poi quando prendo quello già fatto, quello pronto, non riesco a mangiarlo in confronto, però c'è qualcosa che manca, non viene mai esattamente quel bel pestone che ogni tanto ti capita di mangiare. Sono d'accordo. Per mani altrui. Sono d'accordo, il pesto è una cosa che viene veramente diversa, anche a parità di, no, di ingredienti, però può venire estremamente diversa. Sì, ci sono delle tecniche anche lì, chi lo fa col frullatore, il ghiaccio, chi lo fa col pesto, con il mortaio. Bravo, io il ghiaccio l'ho scoperto in realtà solamente 2 anni fa, perché mia madre mi ha spiegato che... Si ossida. Esatto, e quindi diventa nero. Quindi l'ho scoperto anche io poco tempo fa. Io amo anche molto il pesto di rucola, per dire. Buono. Rucola e mandorle, probabilmente anche qui ho un paio di genovesi che stanno dicendo «Belimba, che cazzo dice quello?» riguardo il mio pesto di rucola e mandorle, però funziona. No, il pesto è pesto, e si può fare pestando, insomma. Può essere di qualsiasi cosa, mettiamola così. Poi se avete problemi con l'ossidazione, a tutti i radioascoltatori, coltivatevi il basilico nero, così anche al momento di ossidazione non si accorgerà niente di nessuno. Tra l'altro, a proposito di basilico, è molto curioso perché qua in Grecia non hanno il nostro basilico, ma che è quello a foglia gigante. Bravo, che è assurdo, perché fa un odore fotonico, però poi al momento del sapore è veramente... Non è quella roba a cui siamo abituati noi. Quello greco, dici? Sì, adesso l'ho tentato, tra l'altro. Ma quello greco è a foglia minuscola, no? O gigante? Ha una foglia che non è come la nostra, bella cicciona, cioè in mente che è un po' spessina. Sì. È una foglia molto... è quasi pelosina, ed è sottile, è molto più affusolata. Non è proprio come il nostro, che invece è un po' più panciuta, un po' più spessina. Ed è assurdo, perché fai dei pesti che... quando stai per mettere in bocca la forchetta dici ammazza che odore, che roba che è, e invece poi sa di pinoli, sa di parmigiano, sa di aglio. Comunque, per il complotto della biodiversità, non comprate le piantine di basilico al supermercato, andatevi a scegliere dei semi, ci sono milioni di qualità di basilico, troverete quella più affine al vostro palato e ai vostri cuori, coltivatele per sempre. Assolutamente, io l'ho appena piantato, tra l'altro, e spero che non diventi quello greco. Sicuro, si trasforma sicuro. Per vicinanza. Esatto. Per osmosi. E invece, dai, se posso dire anch'io l'ultima cazzata sulle peggiori ricette mai cucinate, io mi riporto agli spaghetti, che in verità sono stati cucinati insieme a un pollo, dentro la stessa pentola, per più o meno dalle 6 alle 8 ore, adesso precisamente non mi ricordo, però c'era una parte di quegli spaghetti che risultò completamente carbonizzata, un'altra parte completamente molle. La cosa fantastica è che poi l'autore di questo fantastico ricetta, di questa fantastica ricetta in questa casa studenti a Eindhoven, applicò uno straordinario metodo di conservazione per questo piatto perfettamente cucinato. Il metodo di conservazione consisteva nel tenere sempre tutto nella stessa pentola in camera, così, insomma, da non dover fare avanti e indietro dal frigo alla camera per mangiare, per più o meno una settimana, perché comunque ha gettato 1 chilo di spaghetti con mezza gallina intera, e quindi c'è, cioè, comunque una settimanella gli è durato. Al domandargli visto che la cosa, il pollo ancora non mi aveva molto traumatizzato, ma vedere degli spaghetti stuprati in quella maniera, brutalizzati, possiamo dirlo, brutalizzati mi ha fatto svegliare l'italiano che in me. Gli ho chiesto, o gli ho detto, insomma, quello che pensavo, sia del metodo di conservazione, poi anche del metodo di cottura. Ho detto: guarda, se vuoi, secondo me in 2 o 3 mesi riusciamo a portarti a un livello con una classe intensiva di... Eh sì, cioè una cosa del genere è grave, perché sai, con il pollo ci sono svariate ricette. Non so se hai mai visto il video del pollo con la lattina nel culo. Che è un masterpiece, perché praticamente tu prendi un pollo intero, prendi una lattina di birra, possibilmente una un po' forte, una birra ad alta gradazione alcolica, e sostanzialmente prendi il pollo, prendi una teglia, apri il culo al pollo e gli infili la lattina aperta dentro e lo metti come se fosse un totem dentro al forno. Il principio è che il calore faccia evaporare la birra che dall'interno cuoce il pollo. Ma non l'ho capito, scusa. Tengo a rassicurare tutti che non l'ho mai provato. Non ho mai provato né a farlo né a mangiarlo. Ma cioè, si mette in forno, no? Ho capito? Sì, tu prendi il forno con la lattina nel culo, va bene. Sì. Perfetto. Ma ti mando i video, sono stupendi. Sono stupendi. Cioè, tutto l'inchiostro che c'è sopra la lattina non è un problema. Ma penso che se sei arrivato al punto di infilare una lattina nel pollo, nel culo del pollo, dell'inchiostro, te ne batte anche un po'. Va bene. Fantastico. Allora io manderei questa Hova di Zé Matteo e Lush One subito dopo avervi detto che personalmente ho provato le patatine fritte chips del pacchetto con la Nutella da piccolo. Adesso non lo faccio più da qualche anno, sono guarito. Ve lo consiglio a tutti. Patatine fritte chips del pacchetto con Nutella. La Commission nationale ne s'est pas opposée à la diffusion de l'émission que vous allez voir, malgré les attaques personnelles et le caractère injurieux et outrancier des professionnels. My name is Lush, O to the N-E. I used to move more meds than an MD. Born hustler before I was an MC. LA King, cold as ice, Wayne Gretzky. Straight out the land of the Lakers and Dodgers. I'll be the Chinese man, number one chief rocker. Groovy is a session that I bless with this verse. I love music, but the biz cause more stress and it's worth it's uno. Not D-R-E, but similar to them letters. A legend in the West, bro. You try to play the role, but you're really just an extra. Shoot at you actors like my dad's a director. Savage arrest, your cardiac if the heart you lack. I rap your records like that blondie with the heart of glass. All about my Betty since Fab Five Freddy. You ain't gotta like me, but you better respect me. Hit him with a game-lace rap. Flick a shot, keep it live, y'all. Innovators, here to lead the way. C&I, dog. Game-lace rap. Flick a shot, keep it live, y'all. The blind lead the blind till they bow to the cyclops. Stepping in hot to this year. Fly around the world in the sky so clear. Stepping in hot to this year. Split squats, smoking out in public, no fear. Until the haters talking shit. Hitter and all is get in line, get in line. Figure your life out, go hustle and earn clout. Don't waste your time, go outside. To the ladies in the club, searching for true love. Girl, you slipping, must be tripping. If you step into the homies, it's repping a Marseille. Put your plug just to end the game like an arcade. Hit them with the game, lace rap. Flick a shot, keep it live, y'all. Innovators, see the lead the way. C&I, dog, game, lace rap. Flick a shot, keep it live, y'all. The blind lead the blind till they bow to the cyclops. Stepping in hot to this year. Fly around the world in the sky so clear. Stepping in hot to this year. Split squad, smoking out in public, no fear. Same Mateo. I innovate, I don't kick them same old flows. I'm a weirdo, I don't rock them same old clothes. At the same venues, popping at the same old hoes. The game's so cold, but I don't rock them same old shows. Nah, Molly and Kiko, I be popping it all. Virgin Air, SFO, straight to Charles de Gaulle. European festivals, I've rocked them all. And they ain't photoshopped, that's why I really rock with Ringwald. So go ahead, we gon' go ham on. Dip from the set and all pink like I'm Cameron. We don't got mallet to rap. Hit him with a game lace rap. Flick a shot, keep it live, y'all. Innovators, here to lead the way. See an eye, dog. Game lace rap. Flick a shot, keep it live, y'all. The blind lead the blind till they bow to the cyclops. Stepping in hot to this year. Fly around the world in the sky so clear. Stepping in hot to this year. Split squad, shit out in public, no fear. Exilio, Exile, the Thievery Corporation. Bentornati da questo intermezzo musicale con Howa di Zed Matteo e i Thievery Corporation con Exile. E abbiamo forse ancora poco tempo perché in Grecia a un certo punto c'è un coprifuoco, mi dicono. Sì, alle 7 di sera ce l'hanno allungato di ben un'ora e volevo approfittarne per farmi una passeggiatina visto che è uscito giusto adesso il sole. Fortunatamente domani sono ancora in vacanza, ma volevo approfittarne oggi per farmi due passi. Ma c'è il sole anche qua, quindi penso che un pochino di vitamina D potrebbe giovare a tutti, anche ai radioascoltatori. Invitiamo a continuare a seguire, a ascoltare la nostra playlist senza pubblicità su exalge.com/radio, anche al sole e al parco. Però potremmo introdurre un argomento, magari anche con un ospite, giusto? Sì. Diciamo che la prossima puntata potrebbe essere a riguardo del giornalismo, di come è cambiato. Io ci terrei anche a fare una piccola parentesi, forse su quello che è un po' lo scopo di tutte le stronzate che diciamo io e Joe, non so se condividi, però il nostro scopo alla fine non è quello di raccontare poi la realtà per come è, citando fonti, ma più che altro per fornire spunti, no? Perché uno magari sente qualcosa, sente una notizia, sente una canzone e grazie a questa poi si mette a fare qualcos'altro, la approfondisce. Quindi ci tengo anche a precisare che le nostre informazioni molto spesso saranno approssimative, ma che il nostro scopo non è quello di fornirvi le giuste, perché non siamo pagati innanzitutto per fare i giornalisti, ma secondo poi perché non è neanche il nostro mestiere, e apprezziamo anche le persone che lo fanno di mestiere, che lo fanno con, no, con la dovuta perizia, ecco. Assolutamente, invitiamo Chiara Maci, Cracco, Bastianic, tutti quanti a donare per tutti gli spunti che gli abbiamo fornito sulla cucina, su tutti gli spunti su cui possono approfondire loro. Volevi introdurre in questa puntata anche un Cofundinas, mi sembra. Un personaggio importante, potremmo parlarne anche la prossima volta insieme al giornalismo. Poi, se non sbaglio, abbiamo un paio di argomenti in sospeso, come la massa critica. Ma giusto al volo potremmo dire che questa cosa che coinvolge sia la massa critica come concetto che Cofundinas e la Grecia, perché mi sono sorte queste domande sul fatto che apparentemente in Grecia ogni settimana ci sia un motivo per riottare, e mi sembra molto bello, tra virgolette, nel senso che ovviamente la distruzione che porta eventualmente una manifestazione più o meno violenta può essere un bel casino, ma è molto bello invece che ci siano tante persone che scendano in piazza per parlare di qualcosa, insomma, che giustifichino anche un assembramento e che usino il loro tempo per far sapere qual è la loro voce in capitolo. E mi stupisce la cosa come in Grecia sia così forte questo sentimento, diciamo, popolare, mentre in Italia... Bravo, te la ribalto, cioè forse non è che qui è molto forte, semplicemente che in Italia è molto debole, viene da pensare certe volte, no? Sì, assolutamente, sì, è questo. Sì. Cioè, anche in Francia, se ci pensi, quando ci sono delle manifestazioni, voglio dire, dan fuoco a tutti gli Champs-Élysées per dire, che ne so, non toccateci le pensioni, non toccateci questo pezzo di welfare, o eccetera. No? I prezzi della benzina, queste cose, con i gilet gialli, per esempio. Che poi non so, non sempre magari vengono garantite le richieste che vengono fatte dai rappresentanti poi di questi manifestanti, però di sicuro ha un loro effetto, anche minimo, anche su poi la coscienza, sul pensiero di tutti gli altri. E, assolutamente, sì. Non dire niente significa che va bene tutto, no? Se uno non esprime un dissenso. Assolutamente, ma anche come lo esprime il dissenso, perché per esempio ci sono in Italia, c'è da un po' il Io Apro, e a me sembra, capisco il bisogno di fare economia, di fare business per i privati, però è anche vero che con tutto il tempo che si è stati chiusi ci si poteva organizzare per tutti insieme trovare, chiedere e trovare delle soluzioni manifestando in qualche modo, non dico per forza spalla a spalla, alitandosi in bocca, urlando cori, ma comunque si può scendere in piazza tranquillamente con le dovute precauzioni, e secondo me sarebbe stato una maniera di fare disobbedienza civile alla pari, se non migliore, di quella di restare aperti in sordina, con poi magari anche il rischio di essere cattati, di pagare multe, di diffondere il virus, diciamolo. Visto che non l'abbiamo ancora detto. Poi io in verità me ne frego abbastanza, sono pro Io Apro come sono contro. La cosa che mi manca è le persone che si organizzano per ritrovarsi, per parlare di qualcosa, che è la vera politica in fondo, quindi assolutamente la cosa comune, insomma. Sì, no, è la decisione esplicita di spendere del proprio tempo per un topic, un qualcosa che ci sta a cuore, e deciderò di farlo collettivamente. E mettersi e cercare di stabilire delle nuove regole che vadano negli interessi, perlomeno attraverso un compromesso comune, che poi possa essere magari non il più bello di tutti, però insomma almeno un compromesso. E comunque direi che possiamo farci anche i complimenti, perché anche oggi siamo riusciti a non parlare di coronavirus, e direi che questa sarà la strategia di marketing della nostra radio finché ci sarà il virus. Ci siamo riusciti ogni volta, però sempre parlandone, prima o poi riusciremo anche proprio a non dirlo. chi lo sa. Esatto. E che alla come fine ormai è... con Berlusconi. Sì, come esatto. Walter Berlusconi con Berlusconi nel 2008-2009, non mi ricordo. E anche Berlusconi è entrato nella seconda puntata, questa cosa mi fa molto piacere. Diciamo che sono un po' come degli intercalari, no? Coronavirus, Berlusconi, buongiorno, buonasera, ciao. Berlusconi. Berlusconi. No, no, è vero. Allora, se tu hai ancora qualche minuto, possiamo approfondire questo Cofundinas. Se no, sì. Lasciamo i nostri ascoltatori con un po' di musica e ci pensiamo la prossima direi volta. Che possiamo fare un 5 minuti di riassunto, così magari poi sì, anche perché sono successe altre cose. E quindi direi che potremmo fare un 5 minuti di spiega volante, così poi la prossima volta li possiamo interrogare. E poi lasciarli alla loro meravigliosa domenica. Ci sta, puoi fare lo spiegone da Atene al posto che lo spiegone da Milano? Facciamo lo spiegone da Atene invece che lo spiegone da Milano. E intanto ci tengo a precisare che è molto interessante la nazione Grecia per due motivi. Il primo è che nonostante appartenga all'Europa, forse come avevo già detto l'altra volta, non se la cacca di pezza nessuno. Nel senso che è veramente difficile trovare degli articoli sulla Grecia, a meno che non siano degli articoli di siviaggia.com riguardo le bellezze della nascosta Lesbos. E che anche lì di notizie eclatanti ce ne sarebbero parecchie, invece viene esatto. Spacciata solo come un'isola di turismo. Esatto. E secondo poi il fatto che comunque il ruolo del giornalismo e dei media all'interno di questa stessa nazione è fortemente politicizzato e assolutamente al soldo di alcune gerarchie. Cioè, quando noi ci lamentiamo a volte dell'Italia o del paese da cui veniamo, e poi farsi fare i conti con un altro posto dove le cose non sono esattamente come ci aspettavamo secondo i nostri, diciamo, standard democratici, mi viene da dire, questa cosa ci colpisce in un modo o nell'altro. È pazzesco che si possa avere comunque questa differenza in quello che si chiama Europa, che si vuole vendere certo. Come qualcosa di già molto ben stabilito. Un bene comune sì. Che però è anche garante di democrazia, diciamo, in tutta quella che è l'Unione Europea. Poi in verità ogni stato ha una storia a sé molto profondamente diverso, quasi come ogni regione poi. Assolutamente. E a questo proposito, ad esempio, cito un esempio dell'altro giorno in cui il discorso alla nazione di Mitsotakis, dopo quello che è successo domenica scorsa, perché domenica scorsa un sacco di famiglie erano nella piazza del quartiere di Nea Smirni, che è un quartiere a 1,5 km da casa mia, che molte famiglie erano lì a bere un caffè, far giocare i bambini, e sono arrivate 80 unità della Dias, che è la polizia a bordo degli scooter, che personalmente fanno ridere perché sono, immaginati, due sbirri in antisommossa su uno scarabeo 50 nero. No, vabbè, genio. con le gomme piene, antiproiettile, il parabrezza antiproiettile. Esatto. L'immagine di questo è la scenario in 80. A cagar cazzo alle persone che stanno lì e cominciando a fare multe, sebbene loro non abbiano nessuna autorità per fare multe, perché appunto sono degli antisommossa. Quello che succede è che un ragazzo dice: no, raga, veramente, cioè, non potete, non dovete venire qui, noi siamo qua a berci un caffè, domenica, sono le 4 di pomeriggio, ma che cosa volete? Questo ragazzo è stato manganellato per mezz'ora, gli hanno fratturato un braccio e le costole. Quindi, simpatici. Esatto. Questo per dire, molti amici greci che ho, per esempio, hanno cominciato ad andare a manifestazioni, e ne è cominciata una gigantesca proprio la stessa domenica, dove un sacco di persone sono andate a protestare nel quartiere di Nea Smirni per scendere in piazza per dire no alla violenza gratuita della polizia, che poi è sfociata in ulteriore violenza, perché il giorno dopo, per esempio, dei simpatici ragazzi hanno lanciato molotov sul commissariato del quartiere di Nea Smirni. Sono successi ulteriori tumulti che hanno portato anche al ferimento grave di un poliziotto, per cui il premier Mitsotakis ha deciso di fare una sorta di discorso alla nazione, che è stato bersaglio di tutti gli insulti possibili e immaginabili della popolazione greca. Cioè, tu immaginati che il video su YouTube aveva 1000 reazioni di like, 57.000 di incazzatura e tipo 20.000 di dislike. Ma tanto che lo stesso, diciamo, il social media manager del governo ha fatto piazza pulita di tutto quello che poteva essere il discorso del Premier circa queste cose. Ha bloccato i commenti, ha tagliato il video, ha messo i gattini al posto dei momenti esatto. pericolosi. Che poi è così, da violenza nasce violenza, da cosa nasce cosa, però... Esatto, per cui per dire che, e la cosa curiosa, e chiudo, e poi la settimana prossima magari parleremo di Cufondinas, è che poi i media standard, che potrebbero essere la nostra Rai, il nostro Sky TG24, piuttosto che il nostro La 7 o Radio Popolare o quello che ci piace pensare come quella cosa che noi accendiamo per farci dare un par di notizie, non ha riportato minimamente nulla, ma nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. No, assolutamente, con tutto lo spazio che c'è e con tutte le notizie che si potrebbero dare, alla fine i notiziari sono per 24 ore, se non per una settimana, sempre tutti uguali e girano intorno sempre a due o tre cose. E questa cosa del giornalismo è molto interessante perché nonostante poi ci siano fonti indipendenti, telegiornali o giornali più o meno dipendenti indipendenti, alla fine sono tutti dietro alla notizia che vende, e te l'annunciano e te la danno se vende, se è quella che secondo loro tu puoi starci attaccato per più di 20 minuti e seguirla, e te la ripetono, la ripetizione è uno strumento molto forte per i media. Noi speriamo di non ripetere mai niente a parte Berlusconi e... Oppure sei allineata con degli interessi, perché poi quello è l'altro grande, no? Certo, sì, è un altro modo per venderla, venderla perché qualcuno è interessato, insomma. Esatto. Va bene, direi che ci salutiamo per la prossima settimana, quindi io ti mando un grosso Berlusconi, visto che è diventato un momento calare. Io ti mando un grosso virus virtuale. E chiudiamo con che pezzo che me lo sono scordato. Allora, ci siamo con Eve of Destruction di Barry Maguire oppure Alabama Shakes Hold On, dimmi tu. No, direi Eve of Destruction, in cui c'è questa frase meravigliosa dove lui dice sei abbastanza grande per lanciare una bomba ma non abbastanza per votare, e questa è un po' la fine della nostra puntata. Simpatico. Senti, hai una versione da suggerirmi? Perché tutto quello che ho trovato la voce si sentiva molto poco. Io l'ascolto su Spotify di solito, okay, quindi speriamo che si senta bene. Sì. Tra l'altro è anche la canzone con cui si finisce una commedia molto molto carina che c'era su Netflix recentemente, che era L'Isola delle Rose, non so se l'avevi vista. Ah, carina, sì. Era molto carina. Molto leggera, ma allo stesso tempo romantica e intelligente. Sì. Sì, tratta da una storia vera, tra l'altro. Sì, anche se poi se ti leggi la storia vera non è andata proprio così, cioè quella era veramente una romanticizzazione della questione. Cosa, il finale o in generale la piattaforma? No, in generale era un po' più romantica del dovuto, diciamo. Ok, va bene ragazzi, Barry Maguire, Eve of Destruction. Ciao Berlusconi a tutti! Berlusconi. Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me. Yeah, my blood's so mad. feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. A cat twists the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, I don't believe we're on the eve of destruction. All the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace.